24 mattino. Buona giornata da Simone Spezia. È il momento della rassegna stampa, lo ricordo sempre in questi giorni, naturalmente in apertura di trasmissione, in apertura delle singole parti della trasmissione. Alessandro Milan tornerà lunedì, quindi non vi preoccupate. Allora, i giornali di oggi dedicano ampio spazio, sono tutte le principali, le aperture dei principali quotidiani, ancora una volta al tema dell'Europa. Perché? Perché ci sono le parole di Matteo Renzi di ieri, quelle che il Corriere della Sera definisce la sfida di Renzi all'Europa sui conti, quelle che Repubblica parla di, anche qua, anche Repubblica parla di sfida all'Europa, conti, Renzi sfida all'Europa, basta con i compiti a casa. Questo naturalmente è il tema centrale. Il Sole 24 Ore va invece un po' più sul dettaglio delle aperture europee, come titolo di apertura, aperture europee sui fondi per la crescita e il lavoro. Renzi a Bruxelles, nessuna manovra, l'Italia sa cosa fare. Tra l'altro il Sole 24 Ore, ci arriveremo tra un attimo, ha un'intervista ancora una volta del vice direttore Fabrizio Forché, che ieri aveva intervistato il ministro dell'economia Padoan e oggi intervista Angelino Alfano, il leader di NCD e ministro dell'interno, con un taglio naturalmente economico e con dei punti a nostro giudizio, da quel che vediamo, se non di contrasto, comunque di dialettica proprio con il ministro dell'economia. E però l'intervista del giorno, e forse quello che sarà lo snodo politico di discussione delle prossime ore, che forse potrebbe anche creare qualche problema all'interno dello stesso Partito Democratico, problemi ulteriori naturalmente, come se non ce ne fossero già abbastanza, è senza dubbio il colloquio di Federico Geremicca proprio con lo stesso Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Un racconto, una telefonata mentre Renzi è in viaggio, non ho capito bene se in ritorno o in andata verso Bruxelles, poi ieri da Bruxelles è tornato piuttosto presto perché aveva un incontro a cena col segretario di Stato americano Kerry. E però il tema interessante resta quello dei conti, che già ieri ha suscitato qualche polemica e che probabilmente oggi non mancherà di suscitarne di nuove. E qual è il punto? Il punto è che Renzi ha sostenuto ieri parole citate da qualche retroscena, parlandone con i suoi, questo è tema quando si parla di retroscena, sapevamo che i numeri non erano quelli che raccontava Letta, ma siamo gentiluomini e non abbiamo calcato la mano. Dopodiché su Twitter, mezzo molto amato dal Presidente del Consiglio, rispondeva proprio Fabrizio Saccomanni, l'ex ministro dell'economia, discretamente arrabbiato direi, no? I commenti sulla correttezza dei conti presentati al governo Letta, che sarebbero stati espressi dopo la diffusione dei risultati della in-depth review della Commissione Europea, sono incomprensibili e immotivati, dice Fabrizio Saccomanni, in realtà poi in una nota, prima ha detto via Twitter e poi ha mandato una nota. Ebbene, oggi Renzi torna su tutto questo, è il solito tema, quello che, devo dire la verità, lo vediamo alla fine ad ogni cambio di governo, ed è in sostanza quello di dire: il precedente governo proprio i conti a posto completamente, non li ha lasciati. Dunque, che cosa dice Renzi in questo colloquio che Geremicca racconta essere un po' confuso, in questo colloquio sulla stampa, un po' confuso perché? Perché il cellulare prendeva male, prendeva e non prendeva, si sentiva, non si sentiva, si sentiva malissimo. E comunque su questo tema è molto netto Renzi. Sui conti c'è poco da dire, è stato addirittura Saccomanni ad avvisarci che le cose stavano in un certo modo. Dunque non capisco né gli attacchi né le ironie. Così Renzi. In realtà l'intervista è un po' più di quelle che si definiscono a tutto campo, anche se viene definito un un colloquio proprio per la, evidentemente perché è stato un po' frammentario, non un'intervista seduta. Dice Renzi, critiche ridicole anche da chi mi sosteneva, ma la gente sta con me. A proposito dei sottosegretari indagati, altro tema del quale tanto si discute, dovrei buttare fuori dal governo De Filippo per delle spese in francobolli. Qui si pone davvero un problema di civiltà, mi pare surreale, dice. E più surreale ancora, altro tema che farà discutere all'interno del partito, l'attacco frontale a Pippo Civati, dice è che al coro si sia aggiunto Pippo Civati, che ha fatto le primarie contro di me precisamente nella condizione di indagato nella quale sono De Filippo e alcuni altri. Ancora si difende sulla famosa vicenda della canzoncina. C'è qualcuno che pensa che abbia chiesto ai dirigenti della scuola di far cantare quelle strofe, oppure che avesse dovuto fermarli e rimproverarli? È una polemica letteralmente ridicola, idiota, e dovrebbe far riflettere piuttosto la reazione stizzita di Beppe Grillo. Chiude con una coda di veleno, non Matteo Renzi in questo caso, ma l'autore dell'intervista, Federico Geremicca, che dice tutto bene insomma dalle parti di Matteo Renzi se si esclude un certo crescente fastidio per le critiche che gli piovono addosso, ma piuttosto che preoccuparsi di quelle, il più giovane premier della storia repubblicana, che andrebbe forse accompagnato da maggior speranza e un po' più d'ottimismo, farebbe bene a temere l'epitaffio che molti già vorrebbero scrivere per lui e per il suo governo: un fallimento di grande successo, che in fondo potrebbe essere una sintesi niente male. E si chiude con tre puntini di sospensione. Nota a proposito di questa questione dei conti, il Roberto Petrini sulla Repubblica, come anche certi schemi siano cambiati, non sappiamo se sia un bene o un male, fatto sta che sono cambiati. Nota questo: in altri tempi il passaggio di consegne, cioè il passaggio di consegne tra un governo e l'altra e l'altro, si sarebbe svolto in un clima di segreta e composta sobrietà. Invece il ciclo della nuova politica Speedy Gonzales, a colpi di SMS, veloce come la luce, che ha nel mirino burocrazie e vecchi riti, coinvolge anche le austere stanze del Palazzo Umbertino di via 20 Settembre, che per chi non lo sapesse è appunto la sede del Ministero dell'Economia. Così appunto Roberto Petrini sulla Repubblica. Il tema naturalmente continua ad essere quello dei conti. A proposito di questo, come si diceva, ampio spazio viene dedicato a tutto questo dal Sole 24 Ore, con una serie di pagine, una serie di commenti. C'è l'editoriale di Alberto Quadrio Curzio, che parla delle nuove riforme per rilanciare l'economia, il commento anche di Roberto Perotti, quindi due economisti affiancati, quanto pesano sull'Italia i salvataggi europei, cioè tutti gli altri salvataggi, per esempio quello della Grecia, al quale noi abbiamo partecipato anche con i nostri soldi. Quindi anche un conto interessante fatto da Roberto Perotti. Si diceva che l'apertura è dedicata all'Europa, ai fondi per la crescita e il lavoro. Renzi a Bruxelles che dice nessuna manovra, l'Italia sa cosa fare. E c'è questa intervista di Fabrizio Forché al ministro Alfano, al ministro dell'interno Angelino Alfano, qua in realtà più nel suo ruolo di leader di Nuovo Centrodestra e quindi, aperte virgolette, azionista della maggioranza. È interessante questo dell'intervista. Sul cuneo fiscale chiede Forché, Padoan dice che sarebbe meglio concentrare l'intervento, come dire mettere tutto quasi o quasi sull'IRAP o tutto quasi sull'IRPEF. È d'accordo? L'azione deve essere duplice, con riduzione IRAP per le imprese e riduzione IRPEF per i lavoratori. Qua probabilmente vedremo un altro elemento, se non di contrasto comunque, che potrebbe rappresentare un elemento di tensione all'interno di questa maggioranza. Qua anche sulle rendite finanziarie siamo ancora in ballo, se ne ragiona, se ne parla tanto. Qua anche Alfano, così come Padoan ieri, dice: prima di prendere una decisione è giusto riflettere molto attentamente, dobbiamo salvaguardare una delle maggiori risorse del nostro paese, la grande capacità di risparmio. Qua naturalmente siamo sulle dichiarazioni ultra generiche, mi sembra che l'interesse si possa fondamentalmente concentrare proprio su questo tema. sgravi IRAP o sgravi IRPEF, che cosa serve di più per la crescita. Segnalo sempre al Sole 24 Ore, sempre naturalmente a proposito più o meno di questi stessi temi, ovviamente, in realtà un'intervista al ministro delle finanze cinese, realizzata da Rita Fatiguso, che dice: la vera chiave è l'occupazione. Naturalmente spazio anche a Draghi, che dice: con la ripresa i tassi resteranno bassi. Questo è il quadro per quanto riguarda i temi europei, e per quanto riguarda i temi dell'economia italiana vi voglio segnalare l'apertura di Libero. L'apertura di Libero è questa: caccia ai nostri soldi. Renzi, anzi il titolo vero e proprio è: Renzi ci dà alle fiamme. L'immagine è ormai, credo che il Libero abbia scelto progressivamente di rappresentarlo sempre così, l'immagine di Matteo Renzi vestito da duce, perché l'hanno fatto ieri dopo la canzoncina ai bambini, lo fanno anche oggi, con una clava in mano, che con gli occhi bendati, che cerca di rompere uno di quei vasi nei quali dentro ci sono monete, appesi probabilmente da qualche parte. Non sanno che pesci prendere, è il commento di Maurizio Belpietro. Ma di cosa sta parlando Libero? Sta parlando di Padoan, che sostiene Francesco De Dominicis nel suo pezzo, convoca all'improvviso il comandante della Guardia di Finanza. Vuole che le fiamme gialle portino in cassa più risorse dalla lotta all'evasione. E intanto, seppure siano arrivate le smentite dell'esecutivo fino a poche ore fa, intanto, scrive Libero nel titolo, studia l'ennesima manovra. Questo il quadro dal lato economico. Tra poco torneremo sui quotidiani, ci sono altre storie da raccontare. Innanzitutto l'evoluzione sulla vicenda di Roche e Novartis, che si sono difese, dicono che ricorreranno al TAR per questa vicenda. La vicenda qual è? Ve l'abbiamo anche raccontata ieri nei giornali radio, insomma, e poi ripeto, ci torneremo alle 8:15. Si parla di due prodotti sostanzialmente con gli stessi effetti, e sono accusate all'antitrust, e anzi gli è stata comminata una multa per aver favorito un prodotto rispetto il prodotto più costoso, anche 10 volte più costoso rispetto ad un altro che era molto meno costoso, con un aggravio notevole per il Servizio Sanitario Nazionale. I due farmaci Avastin e Lucentis. Oggi La Repubblica, così come altri quotidiani, perché in realtà è tutto contenuto nel dispositivo dell'antitrust, che Repubblica ha deciso di cavalcare la vicenda in maniera energica, parla delle mail di quello che viene definito, quello che definisce l'accordo truffa. Dobbiamo dire che il farmaco low cost, aperte virgolette, è meno sicuro di quello più caro. Così il manager di Roche favoriva Novartis. Si indaga, tra l'altro, apprendiamo da Repubblica, per aggiottaggio, perché è stata aperta anche un'inchiesta della magistratura su questo tema. Questo per quanto riguarda questa vicenda, ripeto, sulla quale torneremo alle 8:15, tra l'altro con parecchi ospiti. Naturalmente su tutti i quotidiani si parla molto anche della vicenda della Crimea, e direi per un attimo di restare su Repubblica, ma giusto per vedere il titolo: la Crimea, ci uniamo alla Russia, il voto è illegale, questo tra virgolette, l'ira di Obama. Quel ponte di Kiev tra est e ovest, si riporta un commento di Henry Kissinger, ex storico segretario di Stato americano, e un pezzo firmato da Bernardo Valli, la guerra in maschera di Putin, l'invasore. Questo per quanto riguarda la Crimea. C'è anche molto altro, se non erro sul Messaggero, anzi ve lo confermo, sul Messaggero c'è, a proposito di questo, un pezzo, un commento firmato da Marco Ventura, è interessante perché riporta al paragone con il Kosovo. La Crimea è come il Kosovo, focolaio prevedibile di contrasti etnici e di guerre europee, una regione circondata dalla reciproca e ostile contiguità di Russia, Europa e prima Impero Ottomano, terre di confine, di trasferimenti di popolazioni, terre di conquista, culle di cultura rivendicate da popoli diversi, dannazione delle enclave nell'est Europa dopo il crollo del muro. Alla caduta del il socialismo, subentra il muro dei nazionalismi, senza più il cemento dell'appartenenza ideologica. E su questa base, appunto, Marco Ventura traccia un parallelo tra la situazione appunto della Crimea, la situazione dell'Ucraina e la situazione del Kosovo. L'altro tema che c'è sulle prime pagine dei giornali, abbastanza forte, con naturalmente degli accenti diversi tra i vari quotidiani, a seconda anche, se vogliamo, della collocazione politica o della collocazione ideale, è il tema delle quote rosa nelle liste. Ne abbiamo già parlato prima, alle 6.30, ne abbiamo fatto solamente un accenno, scusate. Ed è appunto la possibilità di, nel discorso sulla legge elettorale, nel ragionamento, nel dibattito sulla legge elettorale, di inserire delle quote rosa all'interno delle liste. Le donne in rivolta sulle quote rosa, restiamo sulla Repubblica, Grillo caccia i dissidenti, altri 5 in bilico, e restiamo sulla Repubblica perché c'è la micidiale vignetta di Altan che rappresenta due uomini impettiti in giacca e cravatta, insomma sono presumibilmente dei deputati o degli alti papaveri, si guardano e si dicono, uno fa all'altro: quelle vogliono la parità di genere, e l'altro risponde: e noi ci facciamo crescere le tette. Questa la lettura di Altan che Altan dà della vicenda. È sempre su Repubblica, ci sono interviste a Renato Brunetta e Stefana Prestigiacomo, dicono uno non è il metodo giusto, verrebbero privilegiate solo quelle più obbedienti, e Prestigiacomo difendono le loro poltrone, ma noi non arretreremo, e questo Berlusconi lo sa bene. Il commento di Ida Magli sul giornale dice: oggi si è inceppato l'iter della nuova legge elettorale di fronte a una questione, quella dell'immissione delle quote femminili, che in base anche al clima sociale e politico formatosi negli ultimi tempi si riteneva fosse ormai un dato pacificamente acquisito. Lunga introduzione per dire in sostanza: diffidiamo, sembrano voler dire gestiamo noi le donne prima che i posti li prendano da sé e ci superino. No, fermiamoli noi, fermiamo tutti, uomini e donne che vogliono imporre le quote, che sono solo il miglior modo per continuare a pensare che le donne siano inferiori. Così il giornale, nel commento di Ida Magli. Qua è interessante un commento di Vittorio Feltri, sempre a proposito di politica. Restiamo sul giornale, poi torneremo sulla questione appunto delle quote rosa. Un commento di Vittorio Feltri che è una sorta di lettera a Angelino Alfano, nella quale dice: solo una telefonata può salvare la vita di Alfano, ritorno a casa o morte. Chi glielo ha fatto fare, chiede Feltri, di lasciare la casa madre per andare all'avventura e alla ricerca di un'improbabile gloria? In sostanza gli dice chiami Silvio Berlusconi e torni all'ovile come un figliol prodigo. Il senatore Augusto Minzolini, senatore se non sbaglio, no? O deputato? Miriam Lucchetti, tu te lo ricordi, senatore o deputato Minzolini? Vediamo, comunque insomma torna al suo vecchio mestiere, è un collega Augusto Minzolini, e sul giornale scrive un collega giornalista, per comprendere quello che si muove nella palude dei palazzi romani bisogna parlare con un ex ministro trombato come Mario Mauro, amico del Colle, gran conoscitore del ventre moderato. Renzi, spiega con un sorriso beffardo, si è innamorato di Palazzo Chigi. Durante le consultazioni mi disse: voglio andare al governo solo per fare le elezioni da premier. Gli risposi che non ero d'accordo, ma che la sua era posizione legittima. Ora invece credo che alle urne non si pensi proprio. Gli è piaciuto il giocattolo. Se si logorerà, credo che tutto resterà com'è ora. Il titolo è molto interessante, il titolo del pezzo, la politica dietro le quinte, Bersani, due punti. Matteo è pazzo, tutto il non detto sul premier. Mi conferma Miriam Lucchetti, grazie per la rapidità, che è senatore come effettivamente mi ricordavo. Allora. Ritorniamo un attimo sulla vicenda delle quote rosa, perché ci sono delle altre cose da recuperare su questo tema. Ebbene, c'è L'unità, l'altra metà dell'Italicum, rivolta delle parlamentari PD contro l'esclusione della parità di genere dalla legge elettorale. Boldrini dice rispettare la Costituzione, ma Forza Italia non ne vuole sapere. Riporta un'intervista all'Unità alla Pollastrini che dice grave ferita. Qua c'è anche un commento di Massimo Adinolfi in prima: la parità di genere non si impone per legge. Se volete un po' l'opposto al commento di Damagli, la parità di genere non si impone per legge, ha stabilito Maria Stella Gelmini, per questo Forza Italia non si è dichiarata disponibile agli emendamenti. Forse se all'ex ministro avessero chiesto della festa della donna che cade domani, avrebbe proseguito contrariato, osservando che nemmeno quella si può imporre per legge. Così Massimo Adinolfi nell'inizio del suo commento sull'unità. Allora, prima di ritornare un po' alla politica e un po', anzi, fatemi dare anche il titolo del manifesto, che è sempre divertente, sull'Italicum. Il capo, c'è una foto di Matteo Renzi che guarda verso l'alto, seduto nei banchi del governo. Forse anche qua, forse alla Camera dei Deputati, forse al Senato, mi sembra la Camera dei Deputati. Il titolo è Il capo cosparso di genere e quindi non di cenere. Così il manifesto, le deputate fanno cordata bipartisan sulla parità nelle liste elettorali, gli emendamenti all'Italicum restano accantonati, caos nel PD e tra le forziste, Berlusconi non cede, Renzi si adegua. Con gli auguri di un buon 8 marzo a tutti. Questo il titolo del manifesto. Per quanto riguarda invece, vi avevo detto che ci saremmo tornati, il Movimento 5 Stelle nel caos. Movimento 5 Stelle, o meglio, no, governo nel caos e Movimento 5 Stelle che ha dei problemi con le espulsioni. Per carità, perché se no ricominciate con gli SMS e i tweet, almeno per quanto riguarda gli elettori del Movimento 5 Stelle. Allora, titolo del Fatto Quotidiano, governo nel caos, legge elettorale, deficit, lavoro, in sostanza c'è tutto dentro. Dopo solo 9 giorni, scrive nel sommario il Fatto Quotidiano, la luna di miele di Renzi sembra già finita. E su tutti i fronti, persino Napolitano se n'è accorto e chiede garanzie sull'Italicum, mentre l'Unione Europea bacchetta il Premier e lo costringe a smentire le sue accuse a Letta. Infine Camusso parla di un culto della personalità e attacca il piano del lavoro. È un mistero. Verremo poi alla questione del Movimento 5 Stelle, ma intanto saluto Mauro Meazza. Mauro, eccoci. Buongiorno Simone. Allora, il Sole 24 Ore. Insomma, abbiamo già parlato dell'intervista ad Angelino Alfano, realizzata ancora una volta da Fabrizio Forché, però oggi si prova anche a fare i conti su questa maledetta spending review. Sì, si prova, tra l'altro, come sai, proprio nell'intervista fatta da Forché a Padoan, al ministro Padoan, c'erano queste attese sul gettito che può venire dal rientro dei capitali. Oggi ci occupiamo ancora di rientro dei capitali, norme e tributi, e lì c'è una certa perplessità, insomma, sul fatto che davvero possa attirare capitali sufficienti, cioè per l'erario, intendo dire, anche perché ieri sono usciti i dati sulle entrate, le entrate fiscali, commentiamo anche quelli, e insomma la situazione resta sempre molto delicata. E anche se in Europa, come invece hai visto, e sono i nostri titoli principali, Draghi, poi la BCE, hanno deciso di non intervenire, insomma di stare a vedere che cosa succede. Naturalmente. Sta a vedere cosa succede molto anche la UE su Pompei, non so se sei potuto arrivare nella pagina di Imprese e Territori. Forse non ci sono arrivato, però io quando ti sento parlare di Pompei, di quello che scrive il Sole 24 Ore su Pompei, sono sempre terrorizzato, nel senso che ieri mi ha raccontato che appunto il problema è che non ci sono più i muratori e non ci sono i soldi per assumerli. Oggi ti volevo dire che la UE ci ha detto che non ci saranno deroghe, proroghe di sorta, noi bisogna che entro giugno spendiamo i fondi che ci hanno messo a disposizione. Non voglio fare torto al servizio di Francesco Prisco, molto puntuale, citando numeri a caso. Mi pare che ci siano 105 milioni da spendere, non sono tanti, non sono pochi. Il problema è che il sovrintendente dice: io non so se ce la faccio, non ho abbastanza progetti, ma c'è una bella grafica. Poi, peccato, certo, alla radio è un po' difficile mostrarla, ma insomma, lo so. Spiega perché questo progetto Grande Pompei, insomma, ha appunto grandi ambizioni, anzi forse smisurate ambizioni, verrebbe da dire, ma al momento rischia di non cogliere i tempi chiesti dalla UE. Vediamo che succede. Senti, Simone. Poi però, insomma, abbiamo parlato tanto di conti pubblici, di Pompei, eccetera, insomma, parliamo di una nostra eccellenza della moda, perché mi pare che avete anche un po' di cose su questo, no? No, certo, la moda è uno dei dati, le pagine di moda oggi, come ogni venerdì, Moda 24, si torna sul discorso che la moda sta tenendo, anzi è tornata praticamente a livelli pre-crisi. È chiaro che qui parliamo di un mercato che va su tutto il mondo, di una produzione che va su tutto il mondo, e quindi qui gli effetti della congiuntura, insomma della difficoltà economica italiana o continentale, hanno un rilievo completamente diverso, e lo spiega bene Monica D'Ascenzo nel pezzo che apre oggi le pagine di Moda 24 sul Sole 24 Ore. Allora, la questione del Movimento 5 Stelle, così ci torniamo con un giornale piuttosto vicino al Movimento, che lo nega sempre naturalmente, però insomma per certe posizioni lo è sicuramente e lo appare sicuramente. Il titolo del Fatto Quotidiano è Fratelli Coltelli, Movimento 5 Stelle, scontro finale, altri 5 espulsi. Vignetta di Vauro con due persone che si parlano, si vede un piede che tira un calcio e si vedono due gatti che volano in alto, e uno dice all'altro: se Grillo continua con le espulsioni rimarranno in 4 gatti. E c'è quello che guarda verso il cielo, indica col dito e dice: 3 gatti, 2, insomma, e così via. La cosa interessante, secondo me, meglio, lo sfizio se vogliamo, nell'ambito del racconto politico, è l'intervista che realizza Emiliano Liuzzi con Lucrezia Ricchiuti. Chi è Lucrezia Ricchiuti? È una senatrice del Partito Democratico, che sarebbe stata una delle autrici del cosiddetto scouting, il tentativo di tirare qualche deputato o senatore, soprattutto senatore del Movimento 5 Stelle, dal lato del Partito Democratico. Si chiama Lucrezia Ricchiuti, classe 56, eletta in Senato col PD, membro della Commissione Finanze, vice sindaco di Desio. Lei è la persona che da mesi, nonostante Pippo Civati abbia sempre negato, ha aperto la strada ad una possibile alleanza tra PD e Movimento 5 Stelle. Con i 4 espulsi, Orellana, Battista e gli altri, ma anche con i dimissionari e molti di più, dice lei, la donna dello scouting e delle cene. È lei l'ufficiale di collegamento tra il PD e il Movimento 5 Stelle? Risponde Ricchiuti: se parla dello scouting nei confronti dei grillini, ho iniziato ai tempi dell'elezione dei presidenti delle Camere e ho proseguito con l'elezione del Presidente della Repubblica. Loro continuavano a ripetere Rodotà, noi sapevamo che a Prodi sarebbero mancati almeno 70 voti. Ah, anche questa, altra notizia interessante, persero l'occasione. Lei è una delle cosiddette civatiane, sono vicina a Pippo Civati, con una mia autonomia di pensiero, eccetera eccetera. Lei organizzava le cene tra grillini e PD? Ci siamo visti a cena almeno 2 volte, eravamo 12 a tavola, molti degli espulsi, ma non ricordo ci fosse Orellana, per esempio. A una delle cene c'era anche Vito Crimi, chissà che gli succede a Crimi oggi, e con lui all'inizio ho cercato la condivisione di temi, ma Bersani fece l'offerta a Grillo, chiede Liuzzi. So da Crimi, persona della quale mi fido, che nessuno andò a chiedere un accordo con loro. C'era una sorta di doppio gioco in atto e loro avevano in mano le carte perché questa alleanza che oggi resiste non ci fosse. Non l'hanno capito, ma è vero anche che nessuno li ha mai invitati. In quei giorni sono certa che Bersani non incontrò mai Crimi in una sede separata da quella che fu lo streaming. Così questa l'intervista di Emiliano Liuzzi sul Fatto Quotidiano a Lucrezia Ricchiuti. Vogliamo, adesso voglio, mi sono riservato per la fine, due storie che arrivano entrambe dal Corriere della Sera e che in realtà, e qua torniamo sui problemi veri e sulle cose vere, che raccontano due vicende di giustizia. La prima a firma di Giovanni Bianconi, la seconda a firma di Gian Antonio Stella. Partiamo da Bianconi, il quale ci racconta, il titolo del pezzo è questo, attenzione, processi a numero chiuso a Roma, non più di 12.000 casi l'anno. La scelta della procura per mancanza di personale, sono state decise delle priorità. Che cosa succede? Scrive Bianconi, i pubblici ministeri definiscono tra i 18.000 e i 20.000 processi l'anno, i giudici sono in grado di celebrarne non più di 12.000. Dunque, ogni 12 mesi ne restano fuori almeno 6.000, per i quali non si sa se e quando si potrà convocare la prima udienza, che andranno ad aggiungersi ai 34.400 accumulati fino al dicembre 2013. E l'INPS ha già preannunciato, aggiunge, arrivo di circa 36.000 notizie di reato per il solo 2014 riguardanti omessi pagamenti dei contributi. Quindi immaginatevi che intasamento. Che cosa succede? Succede che il Tribunale deve destinare la maggior parte delle risorse a garantire lo svolgimento dei processi davanti ai collegi di tre magistrati, che sono quelli che si occupano dei delitti più gravi e preoccupanti. E dunque a soffrire delle carenze sono soprattutto le sezioni monocratiche, cioè quelle con un giudice solo, alle quali saranno assegnati per il 2014 in ogni anno a seguire, finché la situazione non cambierà, non più di 10.500 procedimenti a citazione diretta, avendo cura di scegliere quelli che destano maggiore allarme sociale, naturalmente. Però resta fuori della roba importante da questo punto di vista, udienze che a questo punto non abbiamo chiaro dove andranno a finire, destinati a rimanere sospesi in attesa di tempi migliori, sono i processi per frodi in commercio, minacce, e qua sarà interessante capire se per esempio c'è anche lo stalking, tanto per fare un esempio, invasione di terreni o edifici, commercio di prodotti con marchi falsi, danneggiamenti, deturpamenti o imbrattamenti di cose altrui e altri delitti puniti con pene lievi. Questo il racconto di Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera. Però sempre dal Corriere della Sera c'è un'altra storia che racconta lo stato devastante della nostra giustizia. Non a caso è uno degli elementi per i quali noi siamo in fondo, agli ultimi posti, insomma, tra le società avanzate, tra i paesi avanzati, nella classifica sulla competitività della Banca Mondiale. Allora, che cosa succede? Succede questo. Il titolo è: un tribunale può anche fallire? Gli avvocati di Vicenza ci provano. Che cosa succede? La fissazione delle udienze al tribunale di Vicenza assomiglia ormai alla vecchia barzelletta sovietica sui tempi biblici della burocrazia. Così l'ordine degli avvocati, scrive Stella, appoggiato da un po' tutte le associazioni di categoria, ha deciso di fare un passo mai visto. Questa mattina presenterà al tribunale berico un'istanza di fallimento del tribunale stesso per insolvenza. Scrive Stella che la situazione della giustizia vicentina sia pesante e noto, non tanto per la penetrazione della società della mafia, della camorra e dell'andrangheta, che pure hanno infettato pezzi del mondo della produzione e del commercio, né per la violenza in generale, eccetera, eccetera. Però pensateci un po', insomma, un tribunale che viene, presso il quale viene presentata l'istanza per il fallimento dello stesso tribunale. È chiaramente una provocazione dell'ordine degli avvocati di Vicenza, però una provocazione che dà la misura della condizione nella quale è la nostra giustizia. Non ho il tempo per fare il presunto carta costa, perché lo lascio ad Alessandro Milan, però Severgnini sul web, Fiorello, eccetera, eccetera, forse meriterebbe. Peter Bescapè in regia, Miriam Lucchetti come sempre in assistenza, che ritroviamo anche dopo.